Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, detto diciamo con dolcezza, ma anche una frase lapidaria, che pare che a due giorni dalla chiusura del sinodo, in questo modo molto chiaramente il Papa dia un po' l'indicazione della linea da prendere, insomma, della via da seguire. Parleremo del sinodo con contorno, perché sapete, appunto, da due giorni si chiude, con contorno di presunta malattia, di smentite. Oggi anche questo chirurgo luminare giapponese Fukushima ha smentito che di aver mai diagnosticato un tumore benigno al Papa. Parleremo di questo perché sapete che ci sono tanti temi delicati contenuti in questo sinodo, di decisioni importanti da prendere. E poi naturalmente, come sempre venerdì, faremo un bel bilancio del meglio o del peggio, vedete un po' voi, della politica italiana, l'appuntamento proprio usuale qui del venerdì con Effetto Notte. E poi parleremo anche di Patricia, che non è un'amica, non è una donna, è questo uragano che si sta per abbattere sul Messico. E pensate che, dicono gli esperti, che uno dei più pericolosi mai registrati, e che potrebbe portare veramente molta distruzione, per cui stanno evacuando centinaia di migliaia di persone in Messico. Cercheremo di capire che portata ha, come si forma anche questo uragano. E poi, più in piccolo, per il momento siamo tranquilli, anche quelle che sono le previsioni per l'Italia. Lo sapete, sempre il venerdì, no? Capire che fine settimana ci aspetta. Bene, allora voi, mi raccomando, con molta attenzione ascoltate Effetto Notte. Sino alle 22 siamo insieme, come tutti i giorni. Ci sono due canali privilegiati per voi per intervenire: una, la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, potete aderire senza indugio di giorno e di notte. E poi ci sono anche gli sms, se volete mandare gli sms al 349 238 6666. Sui temi di questa giornata e di quella, insomma, che tratterò in questa puntata, e se volete anche su questa frase che ha detto oggi, questa dichiarazione che ha fatto Pelé. Chi non conosce Pelé, oggi spegnendo le sue 75 candeline ha detto: scusate l'immodestia, in un'intervista a un giornale, ma non ho ancora visto nessuno forte come il Pelé del 70. Voi siete d'accordo? Potete essere donne, uomini, insomma, Pelé penso lo conosciate tutti. Voi siete d'accordo che non ci sia stato nessun altro giocatore più forte di Pelé? Lui dice: sono immodesto, ma mi spiace, è così. Va bene, iniziamo e poi voi continuate, anzi proseguite, cominciate con le vostre opinioni. La presunta malattia del Papa arriva alla smentita del chirurgo giapponese. Sono state scritte solo falsità, dice. Intanto il sinodo si avvia alla chiusura. Messico, atteso l'uragano Patricia, è tra i più pericolosi mai registrati, dicono gli esperti. Sarà accompagnato da grandi onde distruttive. L'accusa dei magistrati: la politica italiana è più attenta alle intercettazioni che alla mafia. Il PD replica: sono frasi ingenerose. Francia, in uno scontro tra un tir e un autobus vicino Bordeaux, sono morte 42 persone. Per la Francia è l'incidente più grave dal 1982. Turchia, al processo per gli scontri al Gezi Park, 244 manifestanti condannati, pene da 2 a 14 mesi, la sentenza alla vigilia delle elezioni anticipate. La classifica dei paperoni: secondo Forbes al primo posto c'è Bill Gates, seguito a ruota da Mr. Zara, mentre al terzo posto c'è il guru della finanza americano Warren Buffett. Quindi dalla presunta malattia del Papa, che tanto ha fatto chiacchierare e preoccupare in questi giorni, smentita oggi, vi dicevo, anche dal luminare giapponese di chirurgia cerebrale Fukushima, tirato in ballo dal quotidiano nazionale. Sono state scritte tante falsità, ha detto: non ho mai curato il Papa. Sono state scritte tante falsità, non ho mai curato il Papa, l'ho incontrato solo una volta e non credo si ricordi di me. Con queste parole l'agenzia ANSA, il neurochirurgo giapponese Takanori Fukushima, dalla sua casa americana nel North Carolina, nega di aver visitato il Papa, come uscito sulla stampa, esprimendo stupore per l'inattesa sovraesposizione mediatica. Pronta la risposta di Andrea Cangini, direttore del quotidiano nazionale, il professor Fukushima ha impiegato 3 giorni a smentire una notizia che non abbiamo mai dato. QN ha riferito che è stato chiamato in Vaticano per un consulto, non per una visita, e questo non fa certo di lui il medico curante del Santo Padre. Il botta risposta tra Fukushima e Cangini, dopo la pubblicazione da parte del quotidiano nazionale della notizia che il Papa sarebbe affetto da un tumore benigno al cervello, notizia seccamente smentita dal Vaticano, è da davvero meschino inventare che Francesco soffra di una malattia al cervello, come se non sia in grado per questo di agire con cognizione di causa. Il commento oggi di Monsignor Semeraro, vescovo di Albano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto questo per l'appunto avviene a 2 giorni dalla chiusura del sinodo. Poi, come vi dicevo, cercheremo un po' di fare un bilancio tra aperture e chiusure su temi delicati e capire che linea prende questo sinodo, anche se abbiamo sentito le parole del Papa all'inizio, ho fatto sentire che sono piuttosto emblematiche. Poi, per quanto riguarda l'altra notizia importante, quella che riguarda il Messico, atteso l'uragano Patricia, dovrebbe arrivare tra 2 ore, ora italiana, intorno alle 23, e tra i più pericolosi mai registrati, appunto dicono gli esperti. Si accompagnerà a grandi onde distruttive e stanno evacuando centinaia di migliaia di persone. Poi ne parleremo con un meteorologo. Intanto restiamo invece sulle questioni italiane, con l'accusa dei magistrati al governo che fa salire la tensione. Tra politica e magistratura non c'è più lo scontro aperto, ma resta la tensione. Parole con cui il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, denuncia una consapevole strategia di delegittimazione che raffigura l'ANM, dice, come espressione di una corporazione volta alla difesa dei propri privilegi. Davanti alla platea del 32esimo congresso del sindacato delle toghe, in prima fila il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Sabelli non fa nomi, ma è chiaro il riferimento alle polemiche sulle riforme del governo, dal taglio delle ferie alla nuova disciplina sulla responsabilità civile. Alla politica chiede più coraggio contro corruzione e mafia, così ai nostri microfoni. Il tema delle intercettazioni rischia di superare in interesse altri temi, come quello dell'efficacia del processo, come della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Questo non va assolutamente bene e rischia poi di riflettersi anche in una certa timidezza nella spinta riformatrice. Rilievo cronologicamente infondato, replica il ministro della giustizia Orlando. L'iter dei provvedimenti su criminalità organizzata e corruzione è ben più avanzato di quello sulle intercettazioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche sulla legge di stabilità il confronto resta aperto, confronto scontro, in particolare sull'innalzamento del tetto del contante. La manovra arriva al Quirinale, il ministro Piercarlo Padoan risponde su uno dei punti chiave riguardo alla legge di stabilità, quello sull'innalzamento del contante da 1.000 a 3.000 euro. Ho cambiato idea su che cosa? Sul fatto che l'ammontare di contante è un fattore rilevante ai fini della lotta all'evasione fiscale. Non c'è nei dati nessuna correlazione fra l'intensità del limite e la diffusione dell'economia sommersa e quindi molto, molto facilmente dell'evasione. Ci sono paesi nei quali il limite non c'è e in cui l'evasione fiscale è molto bassa. Le tasse devono scendere, ribadisce poi il ministro dell'economia, la pubblica amministrazione deve essere più snella, la giustizia civile più rapida ed efficiente. Ma è polemica per il ritardo con cui la manovra è giunta al vaglio del Colle. Renato Brunetta attacca, la legge di stabilità deve ancora ricevere la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato. Siamo veramente alla barzelletta, al paradosso, siamo all'indecenza. Tra l'altro ci si chiede, ma che legge di stabilità è stata mandata in Europa? La manovra attesa al Senato, l'iter partirà martedì, il 2 e il 3 novembre ci saranno le audizioni e poi si entrerà nel vivo del provvedimento. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per il PD resta anche il nodo marino, perché oggi in un'intervista a Repubblica il sindaco dimissionario Ignazio Marino, il sindaco di Roma, ha detto che se ci saranno le primarie nel PD si presenterà anche lui, e poi ha ribadito che ancora sta riflettendo su queste dimissioni. Poi parleremo anche di questo nel consuntivo della politica italiana di questa settimana. E poi, dopo il blitz della Guardia di Finanza all'ANAS, ieri oggi perquisizioni alle sedi dell'INPS. Da una maxi inchiesta a Salerno su aziende fittizie si scopre un'altra truffa ai danni dello Stato. Da una truffa ai danni dell'INPS ne emerge una molto più grossa ai danni dello Stato. Così la procura di Nocera Inferiore, provincia di Salerno, indagando su aziende fantasma costituite per ottenere indebite erogazioni dall'ente di previdenza sociale, ha scoperto che su questi illeciti qualcuno starebbe speculando, e proprio all'interno dell'INPS. Decine di perquisizioni sono scattate nelle sedi di tutta Italia, partendo dalla direzione di Roma, perché ispettori tenuti a verificare la legittimità delle erogazioni pensioni avrebbero sistematicamente gonfiato il numero di quelle false per avere premi di produttività. E a beneficiare di questi bonus sarebbero anche dirigenti e funzionari che hanno il compito di controllare i dati inseriti. Questo nuovo risvolto dell'inchiesta avrebbe dimensioni ben più estese dei 50 milioni di euro in erogazioni previdenziali illegittime. Solo nel biennio 2012-2013 i premi di produttività ammontano a 400 milioni di euro e le indagini sono solo all'inizio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo adesso sulle notizie dall'estero con questa tragedia in Francia. Il paese è in lutto, ha detto il primo ministro francese Valls, commenta così questo gravissimo incidente stradale in Gironda. Un camion carico di legna e un pullman si sono scontrati frontalmente causando la morte di 42 persone. Una curva in mezzo al bosco e al di là, di traverso, un camion che trasportava legname. Questo è quello che si è trovato davanti l'autista di un pullman carico di anziani, dello stesso paesino, partiti pochi minuti prima per una gita. Non ha potuto evitare l'impatto, ha raccontato alla radio francese il medico che gli ha prestato le prime cure. Ma prima che i due veicoli venissero avvolti e divorati dalle fiamme, è riuscito a sbloccare le porte e salvare personalmente la vita a qualcuno dei passeggeri. Le vittime però sono comunque decine. La Francia e i francesi sono in lutto, ha detto il primo ministro Valls giunto sul posto. Erano più di 30 anni che non si verificava un incidente stradale così nel nostro paese. Indagheremo sulle cause e sulle eventuali responsabilità, ha aggiunto Valls, riferendosi anche sicuramente alle polemiche scoppiate sulla pericolosità di quel tratto stradale. Faremo piena luce, ha ribadito poi una nota dell'Eliseo, mentre da Atene il presidente Hollande porgeva le sue condoglianze ai parenti delle vittime. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ora in Turchia, dove un tribunale di Istanbul ha condannato oggi 244 dei 255 manifestanti imputati nel principale processo per gli scontri legati, ricordate, alle proteste del Gezi Park, iniziate nel maggio del 2013, lo riferiscono media locale. Le pene comminate dal tribunale variano da 5 mesi a 15 giorni, a un anno e 2 mesi a 16 giorni, insomma varie sanzioni. E questo succede poi a pochi giorni dalle elezioni anticipate in Turchia, tra l'altro. Mentre in Africa i miliziani di Boko Haram, miliziani integralisti islamici, hanno conquistato Kerawa, una cittadina al confine tra Nigeria e Camerun, facendo strage tra gli abitanti. La classifica dei paperoni, Mr. Zara, quello che ha questa catena mondiale di abbigliamento, Zara, insidia Bill Gates in testa alla classifica della rivista Forbes degli uomini più ricchi al mondo. Per qualche ora oggi Amancio Ortega, 79 anni, proprietario appunto dell'impero dell'abbigliamento Zara in spagnolo, è stato davvero il numero uno tra i peperoni del pianeta, superando per la prima volta il fondatore di Microsoft. Entrambi hanno una ricchezza stimata tra i 78,5 e i 79,5 miliardi di dollari, mentre al terzo posto c'è il guru della finanza americana Warren Buffett con poco meno di 64 miliardi. Insomma, spiccioli. Non so, vedo gli occhi sgranati di Giacomo Bagnasco del Sole 24 Ore, ma con lui parleremo sì di cifre, ma penso di altro tipo, vero Giacomo? Sì, mondiali sì. Di rugby. Sì, d'altronde è uno sport abbastanza povero rispetto al calcio, quantomeno, quindi queste cifre fanno un effetto particolare. Senti, invece i mondiali in Gran Bretagna si stanno concludendo, l'Italia è già fuori da un pezzo, quindi non ne parliamo. Da domani iniziano le semifinali. Iniziano le semifinali, domani giocano Sudafrica e Nuova Zelanda e domenica Australia e Argentina. Ah, Sudafrica però? Eh? Sì, la grande novità da un lato è l'Argentina, novità relativa, ma comunque è una squadra che si sta sempre più affermando nel panorama internazionale. La grande novità è che non c'è neanche un'europea in semifinale, quindi c'è un mondo lontano dall'Occidente che fa che parecchia si dà strada da fare anche, con anche nello palla sport. Ovale. Il successo rimane anche se le europee non ci sono, siamo arrivati a 2 milioni e 200 mila biglietti venduti per un totale di oltre 200 milioni di sterline. Per queste due partite ieri mattina c'era ancora un migliaio di biglietti e quelli che costavano meno costavano 125 sterline, cioè circa 170 euro. Non è poco, ma è chiaro che i bagarini sono pronti a raddoppiare, triplicare e così via e così via questi prezzi. Il favorito non lo abbiamo, la Nuova Zelanda è numero uno nel ranking, ma non potremmo dirci sorpresi dalla vittoria in questo mondiale di nessuna di queste quattro squadre. Bene, beh, forse è anche più bello così. Certo. Senti, per chiudere, a proposito di vittorie, tu cosa ne pensi di Pelé che oggi ha detto, festeggiando i suoi 75 anni, nessuno mai è stato migliore di me nella storia? Guarda, io Pelé l'ho anche visto giocare, un bambino a Genova, e il Santos arrivò in tournée contro una mista tra Genova e Sampdoria che perse naturalmente. Io penso, a parte che questa è una frase che dicono tutti, quindi la posso dire anch'io, che è difficilissimo, se non impossibile, fare paragoni tra epoche diverse. Io credo che Pelé, avendo vinto un mondiale nel 58, un mondiale nel 70, sia probabilmente il più grande giocatore di sempre. Però direi che gli apici, le meraviglie fatte vedere da Maradona nel 1986, quando l'Argentina vinse il mondiale, mi sembrano impareggiabili. Detto questo, Pelé è del 40, Maradona è del 60 e sarebbe ora che nascesse di nuovo un altro fenomeno. Magari è già nato, però lo aspettiamo. Magari tra le donne, chissà, grazie. Ah, quello può essere. Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Ciao. Vedo, purtroppo i messaggi sono bloccati ancora alle 6, c'è un problema tecnico, ogni tanto sapete anche la tecnologia fallisce, al 349-238-6666, vediamo se tra poco si sblocca, poi leggerò magari i messaggi invece sulla pagina Facebook di Effetto Note, anche voi potete sbizzarrirvi a dare il vostro giudizio su Pelé, se è immodesto oppure se dice effettivamente la verità, che lui è il migliore, oppure come diceva Giacomo Bagnasco, Maradona e qualcun altro che ancora deve venire. Ci sentiamo dopo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme mentre continua a essere bloccato il sistema dei messaggi vostri, ne arriveranno a centinaia che non riesco a vedere al 349-238-6666, purtroppo ancora alle 18.46 con l'ultimo messaggio si è fissato qui il quadro dei messaggi. Allora leggerò qualche messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vela, a proposito di Pelé, che oggi ha detto sono immodesto ma io sono sempre stato il migliore, con me nessuno è paragonabile, scrive: i meno giovani dicono che nessuno è mai arrivato ai livelli di Di Stefano, non conoscendolo bene valuto per quello che so, primo Pelé, secondo Cruyff, che è il giocatore di cui si parla molto in questi giorni perché ha annunciato di avere un tumore ai polmoni. Poi Cristiano: da più parti quando morì Di Stefano qualche tempo fa lessi che per completezza e visione di gioco era stato lui il più grande, non ho visto giocare Pelé, non l'ho mai visto giocare, ma Maradona in quel sinistro aveva davvero i semi e la poesia del Padre Eterno. E così i vostri messaggi che si appassionano, oggi ci concediamo almeno per i messaggi, le vostre opinioni, qualcosa di più leggero. Poi se volete commentare naturalmente le notizie più pregnanti, diciamo, non c'è nessun problema. Pagina Facebook di Effetto Notte, aspettiamo che si sblocchi il 349-238-6666. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Magistrati contro il governo oggi nel loro congresso. L'Associazione Nazionale Magistrati dice la politica ci delegittima, e il PD dice dalle toghe sono frasi ingenerose, perché i magistrati hanno detto la politica italiana si occupa più delle intercettazioni che non della mafia. Il luminare giapponese Fukushima rompe il silenzio sulla presunta malattia del Papa e dice sono state scritte solo falsità, mai curato il Papa, mentre il direttore del quotidiano nazionale che aveva tirato fuori questa notizia dice mai detto che è il medico curante di Francesco. Il leghista europarlamentare Bonanno con la pistola a Sky è apparso con questa pistola, e Bufera, PDSL chiedono che si dimetta, Salvini lo redarguisce, dice non si mostra la pistola in TV, questo sempre in seguito alla vicenda di Vaprio Dada. Scontro tra un autobus e un tir vicino Bordeaux in Francia, 42 vittime. E poi manovra il canone Rai in un'unica rata, ne parleremo tra pochissimo perché su questa storia del canone che si cambia ogni giorno praticamente. Poi Renzi nel suo viaggio in Cile cita Neruda, poeta cileno come sapete, e dice non fermeranno la primavera, bisogna credere nella politica, e continua a dire che insomma l'Italia è solida, è solidale. E poi l'inchiesta ANAS che va avanti, ne abbiamo parlato lungamente ieri, e arriva in Messico, atteso per le 23 ore italiane, il super uragano Patricia. Ora Ora invece saluto il nostro Fabrizio Forché del Sole 24 Ore, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Siamo qui come ogni venerdì a fare un consuntivo, un bilancio del meglio o del peggio secondo il punto di vista della politica italiana. Senti, allora, intanto va detto che sicuramente ancora c'è diciamo in primo piano la legge di stabilità, i suoi misteri a cominciare dal suo approdo al Quirinale, poi in Parlamento, ancora non si capisce bene dove stia stazionando in questo momento, e poi c'è questa storia del caro di cui poi parleremo, perché veramente ogni giorno cambiano idee, appare poi il dibattito infinito sulle unioni civili, si sta cercando la mediazione, anche se è chiaro che ormai l'argomento è rimandato a data da definirsi. Anzi, sentirei semmai Renzi cosa ha detto, così lo concludiamo con questa cosa e ci risentiamo nel 2016 su questo argomento. Ormai c'è una parte del PD che si oppone, avrebbe detto Totò, a prescindere. Mi aspetto da un momento all'altro una dura opposizione persino sul colore delle cravatte. Evidentemente le cravatte non c'entrano con unioni civili, un altro passaggio quello di Renzi, questo è sulla legge di stabilità, e lui che se la prende con la minoranza PD, perché dice comunque sono sempre lì ostili di qualsiasi cosa si parli. Poi lo risentiremo appena pronto quello sulle unioni civili. Invece c'è anche questa settimana il rinvio a giudizio della sottosegretaria ai beni culturali Barracciu e le sue conseguenti dimissioni, poi Marino che ancora sta riflettendo sulle sue dimissioni, dice che vuole una verifica di maggioranza e praticamente fa sapere che al momento delle elezioni per il sindaco di Roma probabilmente si presenterà, quantomeno alle primarie. C'è il file sulle unioni civili? Sì, sentiamolo. Questo terreno è un terreno ricco di divisioni, con tante polemiche. Penso che ora sia il momento in cui, anziché alzare muri ideologici, ciascuno faccia uno sforzo per ascoltare le ragioni dell'altro e si arrivi finalmente a una legge. Siamo tra i pochissimi paesi che non hanno una legge che disciplina le unioni civili. In questo momento il Parlamento è impegnato sulla legge di stabilità, ma io sono assolutamente certo che questa delle unioni civili continui ad essere una priorità, e quindi utilizziamo il tempo che ci rimane prima del voto finale per dialogare, ascoltare, non muri ma ascolto. Una priorità che va al 2016, quindi per il momento chiudiamo così. Poi vi dicevo, rinvio a giudizio, dicevo, Fabrizio Forché della Barracciu, Marino che ancora riflette sulle sue dimissioni, poi l'ennesimo vaso di Pandora che è stato scoperchiato dalla Guardia di Finanza, l'inchiesta sull'ANAS, una cosa incredibile, e poi le dichiarazioni oggi invece del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Sabelli, che ha detto che la politica italiana si occupa più di vicende, di questioni di intercettazioni, che non di criminalità organizzata. E poi è entrato nel dibattito politico a pieno titolo, con le polemiche, con chi ha cavalcato o meno questo argomento, anche la vicenda di Vaprio Dadda. Iniziamo dalla legge di stabilità, Fabrizio Forché. Per forza, perché è quello che ci sta più direttamente impegnando in questi giorni. Io da tanti anni seguo la manovra finanziaria e 8 giorni prima di arrivare al Quirinale un testo non l'avevo ancora mai visto. Siamo abituatissimi a dei ritardi tra il Consiglio dei Ministri che approva la legge di stabilità e la diffusione dei testi e l'approdo al Quirinale e poi soprattutto al Parlamento per il testo definitivo della legge di stabilità, però a memoria 8 giorni è davvero un record assoluto, è un malcostume, una cattiva abitudine che non dovrebbe ripetersi, ma invece ogni anno si ripete. Fortunatamente sembra che oggi finalmente sia arrivato al Quirinale, ma al Senato, quindi in Parlamento, l'aspettano non prima di lunedì, quindi diciamo oramai a oltre 10 giorni dall'approvazione del Consiglio dei Ministri. Però perlomeno oggi per la prima volta abbiamo dei testi, con l'approdo al Quirinale cominciano a circolare dei testi che sembrano quelli definitivi della manovra, e soprattutto le famose tabelle che noi rincorriamo ogni anno per vedere poi i saldi effettivi di questa manovra. Sentiamo un attimo un passaggio di Renzi, sempre sulla legge di stabilità. Le tasse vanno giù e in Italia è un dovere morale. Abbassare le tasse è una priorità. Nessun comune, nessuna regione potrà alzare le tasse il prossimo anno. Via le tasse sulla prima casa, via le tasse per chi fa impresa agricola, e direi una bella iniezione di fiducia per il futuro dell'Italia. Scusa Fabrizio Forché, però questa storia adesso, a parte la TASI che prima non doveva pagare più nessuno, adesso invece le case di lusso, i castelli, dove saranno questi castelli, a parte questo, però anche il canone TV, allora prima di tutto va bene nella bolletta elettrica, poi prima non si doveva pagare giorni fa, l'anticipazione era stata per chiunque avesse un apparecchio TV e anche internet in casa, poi è stato detto no, chi ha internet no, solo se ha l'apparecchio TV ma anche la radio. Poi oggi si dice, mentre giorni fa doveva essere pagato a rate da 16,66 euro questo canone, invece adesso si pagherà in un'unica soluzione nel 2016. Difficile, ma io credo che alla fine pagarlo in un'unica soluzione è anche un, come dire, un fatto di semplificazione. Sarebbe però molto più gradito se ci fosse anche una semplificazione delle notizie che escono sul canone Rai, diciamo. Questo sarebbe una prima cosa da fare, ma è frutto proprio del ritardo di cui ti parlavo prima, cioè inevitabilmente se tu approvi una legge di stabilità, ci fai una conferenza stampa, annunci determinati interventi, a cominciare proprio dal canale Rai che è stato oggetto della comunicazione in conferenza stampa da parte dello stesso Presidente del Consiglio, ma poi per 8 giorni non divulghi un testo di questa legge di stabilità, questo testo diventa un oggetto misterioso per il quale si rincorrono notizie a seconda poi delle dichiarazioni che cambiano o dei ministri o delle indiscrezioni anche che escono dai ministeri. E quindi si ha poi questo effetto marmellata per cui nessuno più capisce qual è davvero la soluzione verso la quale si stia andando. Senti, non è finita qui, fammi dire che non è finita qui. Non è finita qui, speravamo fosse finita qui. No. No, perché noi ora vediamo dei testi che sono magari quelli definitivi che approveranno in Parlamento, ma in Parlamento poi i parlamentari cambieranno questa legge di stabilità. E sul canone Rai vedrai che sarà uno degli articoli sarà uno degli articoli più oggetto di emendamenti. Senti, invece sulle dimissioni della sottosegretaria dei beni culturali Barracciu, accusata di corruzione, spese pazze quando faceva parte del Consiglio della Regione Sardegna, sentiamo, ieri c'era qui effetto nota in collegamento e il capogruppo del PD in Commissione Giustizia l'altro ieri, Walter Verini, sentiamo cosa ha detto in proposito. Io non credo che Marino, se si è dimesso, lo abbia fatto per la storia degli scontrini. Dopodiché il tema di Marino è un po' più profondo, nel senso che la crisi di Marino è una crisi politica, si è rotto un po' un rapporto, se mai si era mai consolidato, questo va detto, con la città. Questo era appunto sulla Barracciu, su Marino, adesso no, questo era su Marino in realtà, no, niente, sulla Barracciu non è stato preso, niente, ha parlato anche lungamente della Barracciu e come ha detto anche Renzi, Fabrizio Forché ha affermato che insomma naturalmente bisogna vedere come andrà le indagini, è stata rinviata a giudizio, quindi bisogna aspettare il processo, e apprezzano comunque lo stile, il fatto che si sia dimessa, ecco, questo era... un po' di guai, avevo chiesto a Verini, dico avete un po' di guai nel PD ultimamente, sì, come in qualsiasi grande partito, insomma questo era, e per Marino, sai che c'è il nodo Marino, continua a resistere Marino, ancora in questa intervista a Repubblica che fa molto discutere, ha detto tutti mi dicono di resistere, allora noi non molliamo, io se ci saranno le primarie del PD è probabile che mi presenterò. Marino resiste e oggi anzi sembra resistere ancora più di ieri. La situazione è che Marino sta vedendo un certo consenso popolare in questi giorni e questo, come dire, alimenta la sua fiducia per uno sbocco diverso della sua vicenda rispetto a quello che solo una settimana fa tutti immaginavamo. Ora che lui riesca davvero a rientrare dalle dimissioni, secondo me è comunque difficile. È probabile che abbia l'idea di potersi in qualche modo ripresentare, di partecipare alle primarie del PD, creare comunque delle difficoltà a quel PD che ora sta facendo di tutto per creare delle difficoltà a Marino, cioè per convincere Marino a rinunciare definitivamente alla sua carica di sindaco. Marino non vuole invece uscire in punta di piedi, Marino vuole combattere e vuole far capire al PD che lui è intenzionato a resistere, come dire, devono parlare con lui, non possono pensare, o perlomeno devono sfiduciarlo in consiglio comunale. Questo è un passaggio in effetti che il PD sembra non riuscire a fare per tante ragioni politiche, e Marino dice voi non mi potete sfiduciare con le dichiarazioni sui giornali, con gli ultimatum, con le intimidazioni, voi se avete la forza mi sfiduciate in consiglio comunale, se no io valuto per rimanere. È evidente che in questa situazione la Barraccio però non poteva rimanere al suo posto, perché poi la vicenda è analoga, se non più grave, quella della Barraccio. Infatti, si è creato un po' di imbarazzo nel PD da questo punto di vista. Sì, no? Quel punto di vista. Senti, invece, sull'inchiesta, vaso di Pandora scoperchiato dell'ANAS, sentiamo cosa ha detto, proprio diciamo una situazione deprimente, dice il procuratore capo Pignatone di Roma, perché è la procura di Roma che ha aperto questa inchiesta. La sensazione è stata deprimente, devo dire, della quotidianità della corruzione. La nostra principale indagata va in ufficio per lavorare, ma il suo lavoro è gestire questo flusso continuo di corruzione, a volte riuscita, a volte non riuscita, c'è la borsa sempre aperta, si arriva qualcuno e ci mette una busta. Insomma, cose veramente dell'altro mondo, Fabrizio Forché. Poi c'era anche ieri la vicenda grottesca dell'assenteismo a Sanremo, dei dipendenti che andavano a timbrare per gli altri in ciabatte e mutande, poi tornavano a fare le loro cose. Cantone diceva, il capo dell'anticorruzione, qui bisogna cambiare cultura. Ma quando è che cambia questa cultura in Italia della legalità? Il personaggio che andava in mutande a timbrare era veramente deprimente. No, veramente ieri abbiamo visto la peggiore Italia, mamma mia, la quale ogni volta speriamo che ci liberiamo, ma invece non ci liberiamo mai. Insomma, appunto, l'incrocio tra le immagini dei dipendenti comunali che timbravano in qualunque condizione di vestiario, il loro cartellino per poi fare tutt'altro, e la vicenda ancora forse più grave, più seria dell'ANAS, certo, insomma, sì. L'ANAS, appunto, la normalità della corruzione, sì, anche forse un po' la volgarità della corruzione, perché poi ascoltare quelle conversazioni c'è proprio un'intesa che passa attraverso anche un linguaggio molto scurrile, insomma, dei personaggi, della bassezza proprio dei personaggi, anche questo si colpisce, insomma, in queste vicende. Soprattutto vicende che colpisce che non riusciamo a liberarci del male della corruzione, anzi forse prima c'era una corruzione che passava per grandi cifre, grandi personaggi, grandi partiti, magari grandi imprese. Oggi invece si passa proprio per piccole corruzioni, ma di piccoli personaggi, di piccoli amministratori, di piccoli funzionari, però sembra un fenomeno forse anche più grave, perché più capillare anche, sì. Più capillare. Fabrizio, siccome abbiamo pochissimo ancora, ti faccio sentire, saltiamo subito all'argomento di Vaprio Dada, che ha fatto molto discutere di nuovo sulla legittima difesa, sul fatto di cambiare o meno questo tipo di reato, l'eccesso colposo di legittima difesa. Sentiamo che cosa ha detto il pensionato di 65 anni che ha ucciso il ladro albanese che era nella sua proprietà. Adesso bisogna capire dai rilievi, era in casa, no? Sembra che fosse sulle scale. Sentiamo lui cosa ha detto e mi dai proprio un parere, poi ci salutiamo. Basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa, ma 25 anni però, perché questo non è un furto, questo è uno stupro psicologico a me, mia moglie, nipote, i figli, i fratelli, è ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni. Beh, okay? Siamo in diretta, okay? Non me ne frega niente. Sto male, come vuole che stiamo? Mia moglie trema, oggi l'ho portata dal medico, ma le sembra una cosa ragionevole? Tu che cosa hai pensato, Fabrizio? Un tuo pensiero, un tuo commento, riflessione su questi fatti? Sono temi molto difficili, ti dico proprio un'impressione, ma insomma, totale solidarietà verso le persone esasperate, più o meno esasperate da un fenomeno, quello della criminalità, che indubbiamente è molto pervasivo, e quando ti colpisce, come dire, ti colpisce davvero duramente, psicologicamente, ti turba, insomma. Quindi massima attenzione per chi viene colpito da questi fenomeni e per chi vive questa esasperazione. Però molti dubbi in più per chi dalla parte della politica cerca di strumentalizzare questi fenomeni, e a me sembra che ci sia decisamente una parte della politica italiana che in questa fase storica sta cercando di strumentalizzare questi fenomeni, queste pulsioni, queste paure delle persone, e questo credo sia davvero molto sbagliato, perché alimenta le paure, alimenta l'inquietudine e alimenta un clima sociale molto negativo, che poi non fa il bene dell'Italia, non fa bene nemmeno dell'economia italiana, ma questo è il minimo, ma fa vivere male le persone. Grazie Fabrizio Forché, comunque grazie, sia buon fine settimana a te. Ciao Fabrizio. Grazie. Ciao. Adesso ci prendiamo una pausa di ricreazione. Vi confermo che purtroppo questa sera i vostri messaggi non possono arrivare perché è bloccato alle 18 il quadro degli sms qui in diretta, e leggerò, ecco, giusto un altro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di Pelé. Riccardo dice: 75 candeline, per spegnerle userà un estintore. Pelé che ha detto immodestamente: io sono il migliore di tutti i tempi. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta, state ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci ancora insieme, vi confermo che i messaggi disgraziatamente stasera sono bloccati, quindi non potrò leggere tutte le vostre opinioni, magari poi daremo spazio alla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo invece molto velocemente, perché abbiamo ancora varie cose di cui parlare, le notizie principali di oggi: la presunta malattia del Papa, smentita anche dal chirurgo giapponese Fukushima, ne parleremo tra pochissimo. Poi in Messico è atteso l'uragano Patricia per le ore 23, ora italiana, è tra i più pericolosi mai registrati, dicono gli esperti, sarà accompagnato da grandi onde distruttive. Poi l'accusa dei magistrati alla politica italiana, che è più attenta alle intercettazioni che alla mafia. Il PD replica, sono frasi ingenerose. I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo. Ma il nostro atteggiamento deve essere continuamente, deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Questo è il Papa, aveva sentito un assaggio all'inizio, quindi sembra dare a due giorni dalla chiusura del sinodo quella che dovrebbe essere la linea, la via da seguire. Sapete che questo sinodo è stato accompagnato da un sacco di notizie, di cose che hanno un po' scombussolato, però il Papa credo abbia tenuto tranquillamente il timone. C'è Katia Caramelli qui in studio. Sì, ciao, buonasera Katia. Roberta. Buonasera. Senti, questa notizia che ha fatto tanto preoccupare, discutere, data dal Quotidiano Nazionale giorni fa, di questo presunto tumore al cervello del Papa, poi è stato smentito, devo dire, con molta calma, dopo diversi giorni dallo stesso chirurgo giapponese Fukushima, che era stato coinvolto in questa cosa. Sì, diciamo, no? Che ha messo un po' il punto oggi Fukushima. Ha aspettato un po' di giorni. Ha aspettato un po' di giorni, ma sai, sono sempre cose molto complesse con il Vaticano. Alla fine lui oggi comunque ha detto: io non ho mai avuto in cura come paziente il Papa, l'ho incontrato una volta, forse lui non si ricorda neanche di me. Ma voglio dire, la questione non era neanche tanto quella della presunta malattia del Papa, perché poi comunque si parlava di un tumore benigno, curabile, senza intervento. La questione era i leaks che ci sono stati durante tutte queste tre settimane di lavori, e quindi l'ombra di un nuovo scandalo, per cercare un po' di confondere le acque, no? Perché comunque la posta in ballo, ricordiamolo, è tanta, non tanto per le singole questioni all'interno del sinodo discusse, no? Sì, che non tanto votare. Voglio dire, l'eucaristia, il divorziato, risposato, eccetera, non è tanto la singola questione, è proprio l'approccio che si vuol dare alla Chiesa di oggi, perché il Papa è stato chiaro, ha detto: noi non dobbiamo avere più una Chiesa che si ripiega su se stessa, che porta avanti una fede che ormai è da museo. E quindi diciamo che si sono contrapposte durante tutte queste tre settimane di lavori queste due visioni, e tutte queste notizie fatte uscire un po' ad arte, dalle rivelazioni di Monsignor Ciaramza alla famosa lettera dei 13 cardinali che esprimevano il loro dissenso, fino poi alla presunta malattia, hanno avuto un po' l'obiettivo di, comunque, di sabotare o di condizionare. Sicuramente su questo concordano tutti. Dopodiché i padri sinodali hanno assicurato di non aver dato peso a queste voci, di non essersi fatti condizionare. Adesso domani si entra nel giorno decisivo, perché si vota si vota questa relazione finale, ci sarà un voto per ogni punto, una relazione dove i cardinali hanno detto ci saranno non tante risposte ma tante domande. Le domande ci sono tutte, le risposte no, perché le risposte che io deve dare le darà il Papa, perché lui ha portato avanti l'idea di un sinodo come collegialità, quindi ha voluto, ha preteso l'opinione di tutti, però poi la sintesi dovrà comunque farla lui e sicuramente non piacerà a tutti, insomma. È di apertura questa sintesi, ma io credo che dovrà necessariamente essere su qualcosa di apertura, perché tutti si aspettano un passo in avanti, non si potrà rimanere fermi al sinodo straordinario, questo è l'ordinario, non si cambierà la dottrina, questo è certo, perché il sinodo non cambia la dottrina, ma si cercheranno delle vie pastorali per curare quelle che la Chiesa chiama ferite della famiglia, come appunto quella dei divorziati risposati. Poi c'è il tema dell'omosessualità, molto discusso. Quello è stato molto sfiorato, non è stato molto dibattuto e credo su quello non ci saranno grosse sorprese. Grazie Katia Caramelli. Prego. Ciao. Europa 24 notte. Per lo spazio europeo parliamo dell'architetto Mario Cucinella, tra le firme più famose dell'architettura made in Italy, che ci accompagna a spasso tra i palazzi delle istituzioni europee per raccontarci come palazzo, istituzione, contenitore e contenuto siano indissolubilmente legati e come da lì passi l'idea di una nuova estetica europea. Ce lo racconta Silvia Bernardi. Quando si parla di istituzioni europee si ha la tendenza a farne tutto un mucchio, una generica e indistinta burocrazia sparsa nei molteplici palazzi brussellesi. Invece ogni istituzione ha il suo carattere, che gli viene non solo dalle sue funzioni, ma anche dalla sua storia, dai grandi personaggi che l'hanno guidata e inevitabilmente anche ispirata. Parlamento, Commissione e Consiglio, una e trina, sono come la Santissima Trinità, uniti eppure molto distinti. Oggi, a farci da guida in questo viaggio tra i palazzi delle istituzioni europee, c'è una persona speciale, è l'architetto Mario Cucinella, che ci accompagnerà nel quartiere delle istituzioni europee, oltre la porta che si apre sulla politica, dentro i palazzi dell'Unione, per raccontarci come palazzo e istituzione, contenitore e contenuto, siano indissolubilmente legati. In altre parole, quello che vediamo all'esterno, cemento, vetrate, piani che si sovrappongono verso l'alto, altro non sono che la rappresentazione di quello che contengono, ovvero il più importante esperimento di democrazia dell'ultimo mezzo secolo. Quello che sarebbe molto, credo molto bello, anche auspicabile nel futuro di queste istituzioni, è anche una certa sobrietà, no? Che credo che sia anche un elemento molto importante anche nel linguaggio, no? Perché noi stiamo dicendo che siamo un'Europa del lavoro, un'Europa dei diritti, un'Europa giusta, e cerchiamo di costruire un paese o una comunità di uguaglianza. Ecco, dovrebbe esserci un edificio che non esprime opulenza, ricchezza, no? Ma che esprime invece una sobrietà, quindi che fa capire che quella sobrietà è il segnale invece di un tema di uguaglianza, che a me sembra molto, molto importante, perché nell'evoluzione anche dei linguaggi e della comunicazione quello che si percepisce da fuori è molto spesso un'immagine, no? Perché non tutti i cittadini europei andranno a sentire le discussioni del Parlamento, però invece lo vedranno, no? Lo vedranno in televisione, lo vedranno nelle interviste, lo vedranno in tutta la comunicazione dei giornali. Quindi quel messaggio che rappresenta quell'istituzione deve dare questa sensazione di sobrietà, no? Perché in fondo lì si decidono le sorti di popoli, si decidono dove vanno le risorse, si decide come aiutare i ricchi e i poveri, come distribuire la ricchezza. Quindi a mio avviso il passo che io farei nel tempo è quello di far tradurre questa idea di sobrietà e di uguaglianza nella rappresentazione degli edifici, che mi sembra un tema molto, molto importante, molto attuale. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso coinvolgo subito Edoardo Ferrara, meteorologo di Trebi Meteo. Edoardo, buonasera. Buonasera a voi. Edoardo, allora ci dici che tempo farà questo fine settimana e poi dedichiamo anche due parole a questo uragano atteso con terrore in Messico. Allora, ci sono buone notizie per quanto ci riguarda, perché l'alta pressione porterà bel tempo prevalente su tutta l'Italia, quindi sole prevalente, al più qualche banco di nebbia sulla pianura padana e qualche nube di passaggio, ma davvero poco da segnalare. Le escursioni termiche saranno marcate perché farà molto fresco al primo mattino e invece sarà piuttosto mite di giorno, quindi vestirsi a strati perché avremo anche scarti termici di 10-15 gradi tra giorno e notte. E invece per quanto riguarda il super uragano, in effetti fa paura perché si tratta di un evento davvero eccezionale. Un uragano di questa violenza non sarà mai registrato sul Pacifico ed è imminente il suo arrivo sulla costa del Messico occidentale, pensate, con venti anche fino a 400 km orari di raffica e onde oltre 10 metri, quindi una situazione davvero di massima allerta meteo. È come se un tornado F5 colpisse vaste porzioni di costa, quindi davvero una situazione eccezionale. Si chiama Patricia, dato per cambiare da nomi di donne, no? Questi sono le più terribili, diciamo. Speriamo bene per il Messico, insomma, c'è un piano di evacuazione, ci auguriamo che abbiano preso tutte le misure. Si sono già adeguati per tempo, ma proprio perché comunque comunque in effetti è un fenomeno davvero eccezionale quello che sta arrivando e tra l'altro porterà piogge intense anche sul Texas, dove è in programma anche il Gran Premio, quindi avrà effetti anche collaterali secondari, diciamo. Mondo globalizzato, grazie Edoardo Ferrari, Trebi Meteo. Ciao Edoardo, grazie, buon tempo a voi, buona serata. Ciao. Passatempo tic-tac, vola via, giorno e notte tic-tac, così sia. Passatempo passa in fretta con la noia e l'allegria. Sono molto molto stanco, più non penso, più non dormo, faccio solo. Torna l'ora solare, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ricordatevelo, nella notte tra sabato, cioè tra domani 24 e domenica 25, dovete mettere indietro di un'ora e ogni volta c'è questo interrogativo epocale, ma dormiamo un'ora in più o dormiamo un'ora in meno? Diciamo che come compensazione del fatto che ci sarà più buio durante la giornata, siamo tutti più tristi per questo, non si capisce ancora perché non si trovi una soluzione per lasciare l'ora legale, e come compensazione si dormirà un'ora in più, ricordatevelo, quando è l'inverno che siamo tutti scontenti, si dorme un'ora in più, quindi questo diciamo è il contentino. Poi invece a marzo dopo si ritorna all'ora legale, allora lì si dorme un'ora in meno, ma si è più contenti perché c'è più luce. Va bene, ricordatelo, nella notte tra sabato e domenica, mettere l'orologio un'ora indietro, alle 22.